Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ultimo giorno della settimana, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, festa di ogni santi, come vedete però Radio 24 non si ferma mai, qui si lavora e non si ferma il mondo, quante cose sono successe anche oggi, quante cose quindi da raccontare come sempre nel vostro appuntamento con le notizie, con il riepilogo della giornata qui a Effetto Notte, tutte le notizie in 60 minuti. Tra poco vi ricorderò le notizie principali attraverso i titoli, poi vi ricostruisco un po' la giornata, poi ci saranno diversi ospiti, parleremo di alcuni fatti principali di oggi e anche di altre notizie magari non così in primo piano. Allora cominciamo dai titoli. Il caso Cancellieri Ligresti. Il Movimento 5 Stelle annuncia una mozione di sfiducia nei confronti della ministra, intanto il PD chiede di fare chiarezza. Stati Uniti, c'è stata una sparatoria all'aeroporto di Los Angeles, panico tra i passeggeri, è morto un agente e l'uomo che ha sparato, che era un agente a sua volta. E poi il Datagate, il capo dell'NCA accusa i diplomatici e dice ci avete chiesto voi di spiare. Grecia, killer sparano contro i militanti di Alba Dorata, due morti e un ferito, l'agguato è avvenuto davanti alla sede dei neonazisti. E poi la nuova tariffa sui rifiuti, la Tari, costerà cara ai negozi, più 300% per i bar, più 650% per i fruttivendoli. Cominciamo allora a raccontarle queste notizie, partiamo dai fatti italiani, in particolare da quello che più sta accendendo il dibattito politico nelle ultime ore, ovvero il caso Cancellieri, che non accenna a placarsi. Il Movimento 5 Stelle annuncia una mozione di sfiducia, il PD invece chiede alla ministra un chiarimento in Parlamento. Qualsiasi cosa io possa fare, conta su di me, aveva detto il ministro della giustizia Cancellieri alla sua amica Gabriella Fragni, compagna di Salvatore Ligresti, padre di Giulia, allora in carcere, in una telefonata intercettata dalle Fiamme Gialle di Torino. Il guardasigilli aveva poi telefonato ai due vice capi del DAP perché intervenissero a tutela di Giulia Ligresti, che in cella rifiutava il cibo, pressioni opportunamente respinte dai due, Francesco Cascini e Luigi Pagano. Interferenze indebite, smentite dalla Cancellieri, sono pronta a riferire in Parlamento, ha detto, che dividono la classe politica. Compatto il PDL difende la guardasigilli, si è preoccupata per una persona che in carcere rischiava la vita, ha commentato Fabrizio Cicchitto, si è doverosamente interessata, gli ha fatto eco Gabriele Albertini di Scelta Civica. Non pretende le dimissioni del ministro, ma si limita a volere chiarezza il PD, nelle parole di Danilo Leva, responsabile giustizia. Compatti SEL, Lega, Rifondazione, Destra di Storace, Movimento 5 Stelle, nel pretendere che Anna Maria Cancellieri, il cui figlio Pier Giorgio Peluso intrattiene affari con i Ligresti, faccia un passo indietro. Il deputato del Movimento 5 Stelle Stelle Riccardo Nuti. È chiaro che deve dare dimissioni, perché quando per esempio è stato di Stefano Cucchi, che è morto per denutrizione in carcere, nessuno ha alzato il telefono e ha chiesto che questo venisse scarcerato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questa vicenda il procuratore di Torino Giancarlo Caselli, che sta conducendo l'inchiesta, esclude che vi sia stato alcun ruolo nell'interessamento da parte della guardasigilli nell'uscita dal carcere di Giulia Ligresti. L'ha raggiunto Raffaella Calandra. Gli arresti domiciliari alla signora Giulia Ligresti sono stati concessi esclusivamente in base a due fatti obiettivi provati. Primo fatto, le condizioni di salute assolutamente incompatibili con il protrarsi della detenzione, verificate da una perizia, da una consulenza tecnica. Secondo fatto, la richiesta da parte dell'imputata di patteggiamento, richiesta che è intervenuta molto prima delle telefonate di cui in questi giorni si sta parlando. Ecco, nel fascicolo non c'è nient'altro, c'è soltanto questo. Sarebbe arbitraria, sarebbe infondata qualunque ipotesi, anche soltanto ipotesi, di decisioni prese sulla base di circostanze esterne. Insomma, la decisione era stata già presa indipendentemente da qualsiasi altro intervento. Non ci sono stati interventi, per quanto a me risulta. Per quanto riguarda invece le tensioni centrifughe all'interno del PDL, ci sarà ancora lui, Silvio, ma non ci sarà la figlia Marina alle prossime elezioni in campo. Questa la rivelazione, le rivelazioni fatte dal Cavaliere, che comunque sarà incandidabile per effetto dell'interdizione, e rivelazioni fatte a Bruno Vespa. Il Cavaliere ha il difficile rapporto con i Delfini, una storia vecchia che si ripete, prima con Gianfranco Fini, poi con Giulio Tremonti, stavolta con Angelina Alfano. Silvio Berlusconi però non ha nessuna intenzione di farsi da parte, avverte: nessuno può togliermi la guida del partito, in caso di elezioni sentirei il dovere di impegnarmi direttamente, ho un rapporto speciale con gli elettori. Il Cavaliere crede quindi di dover essere ancora in prima linea. Molti italiani temono che la sinistra possa andare al governo, spiega Berlusconi, che definisce unisce il PD, il partito delle tasse e delle manette. Da qui quindi le minacce all'esecutivo: non intendiamo arretrare sulla legge di stabilità. Il PDL ha rispettato gli impegni presi con gli elettori nel febbraio scorso, quello sulla detassazione della prima casa e quello sul fisco meno oppressivo. Il voto potrebbe essere vicino e Berlusconi chiede che siano gli elettori a giudicarlo. Il Movimento 5 Stelle però incalza il Senato, voti presto per la decadenza del Cavaliere. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E spostiamoci adesso sulle notizie dall'estero, più precisamente negli Stati Uniti. All'aeroporto di Los Angeles oggi c'è stata una sparatoria con due morti. Nel frattempo non si placano le fibrillazioni internazionali sul Datagate. Gigi Donelli, quest'ultima sanguinosa vicenda oggi potrebbe dar manforte, poteva dare manforte all'azione di controllo di spionaggio americano per evitare ancora fatti del genere, ma poi in realtà si è ridotta a una vicenda interpersonale, questa di Los Angeles. Questo è effettivamente quello che appare ora, a tre ore, non di più, perché è accaduto tre ore fa, quando a Los Angeles erano le 10 del mattino. Dunque una sparatoria. In estrema sintesi, ciò che è accaduto è che un uomo, un ex agente della TSA, quindi del sistema di sicurezza aeroportuale, è entrato nello scalo, nel terzo degli 8 scali di Los Angeles, enorme aeroporto con 61 milioni di passeggeri l'anno, si è avvicinato a un altro agente, ha aperto il fuoco. Pare che abbia scaricato sicuramente un caricatore intero, ne stava caricando un secondo quando è stato abbattuto. Quindi il bilancio attuale è di due morte e sette persone ferite, di cui uno in condizioni molto gravi. Certo, ciò che ti riferivi al fatto che nelle stesse ore i vertici dell'NSA dicevano sostanzialmente: noi abbiamo fatto uno spionaggio richiesto dalle massime autorità dello Stato, l'abbiamo fatto per ragioni di sicurezza essenzialmente. Addirittura il responsabile dell'NSA si è spinto a dire: vorremmo poter non farlo, ma la sicurezza oggi si basa proprio sull'ascolto e sulla possibilità di impedire episodi. Quindi separiamo pure le due questioni, perché sembra che la questione di Los Angeles non hanno nulla a che vedere. Di certo rimane il tema che dopo l'11 settembre gli Stati Uniti ragionano in termini completamente diversi sulla sicurezza interna. D'altra parte siamo anche alla vigilia di un evento che fa tremare i polsi a molti, perché la maratona di New York dopo domani mattina, lo ricordiamo, l'anno scorso era stata sospesa a causa uragano. Stiamo di fronte a un evento che prevede 58.000 erotti iscritti, di cui peraltro 1800 italiani. C'è il ricordo di Boston dell'aprile scorso, con due bombe, due pentole come erano state descritte, però esplosive, che hanno portato tre morti e oltre 150 feriti. Insomma, la sicurezza è un tema centrale, per cui queste storie sicuramente, abbiamo detto, Los Angeles è una storia a parte, ma il tema della sicurezza nazionale è più che mai presente in queste ore. Grazie Gigi Donelli. E dagli Stati Uniti alla Grecia, anche lì c'è stata una sparatoria questa sera contro una cosa diversa, contro una sede del partito filonazista greco Alba Dorata, che ha provocato la morte di due militanti e il ferimento di un terzo. È stata un'azione terroristica e non una resa dei conti, questo l'ha reso noto la TV privata Sky, citando dichiarazioni di un portavoce della polizia. Adesso invece ritorniamo sui fatti italiani con la nuova tassa sui rifiuti, la Tari, che il governo deve ancora varare in forma definitiva e che si tradurrà per gli esercizi commerciali in un aumento dei costi fino al 600%. Questo lo dice una stima di Confcommercio, secondo la quale con l'addio alla TARSU e l'arrivo della Tari, la nuova tariffa sui rifiuti, nel 2014 salirà in media del 290% e anche più per altri negozi, più 480% per un ristorante, più 650% per un fruttivendolo. Ma sentiamo Pierpaolo Masciocchi, responsabile del settore ambiente di Confcommercio. Ad oggi l'83% dei comuni oggi sono a TARSU. TARSU significa la tassa sui rifiuti solidi urbani. Bene, il restante è TIA 1, TIA 2 o è una piccola percentuale, l'1,8 a TARES. Allora, noi abbiamo avuto modo di registrare che quei comuni che sono passati da TARSU a TIA, quel 13% dei comuni, hanno subito aumenti del tipo che noi abbiamo evidenziato. Questi sono dati appunto ricavabili semplicemente dalle bollette delle imprese e noi ne abbiamo dato conto nello studio che abbiamo fatto. Sì. Quindi abbiamo preso proprio delle bollette di imprese, determinate imprese, e abbiamo visto quando sono passate da tassa a tariffa cosa è successo. Bene, perché si porrà nel 2014? Perché la Tari fonda il proprio presupposto su un regolamento, il DPR 158, che è lo stesso che è alla base della TIA. Quindi, siccome l'83% dei comuni dal 1 gennaio 2014 dovrà passare a Tari, è come se passasse a TIA, perché il regolamento di DPR 158 è lo stesso. Quanti nomi, eh? Poi però cercheremo di avere più chiarezza con un ospite più tardi qui in diretta. Ed è oggi il giorno della rabbia nella Terra dei Fuochi, la zona tra le province di Napoli e di Caserta, dove si dà appunto fuoco ai rifiuti, dopo la lettura dei verbali del pentito di Camorra Carmine Schiavone, che aveva dichiarato, questo nel 97, poi la sua dichiarazione è stata dissecretata in questi giorni, ha dichiarato che per quei veleni sarebbero morti tutti in 20 anni in quella zona. La rabbia è perché nulla, dicono i sindaci, è stato fatto in questi anni. Il governo nei giorni scorsi ha preannunciato un decreto legge ad hoc per le bonifiche in questa zona, ma intanto le storie che arrivano da quella zona confermano quanto aveva previsto l'ex boss. Sentiamo alcune testimonianze, poi l'intervista di Raffaella Calandra al magistrato che più si è occupato di rifiuti in quella zona, Donato Ceglie, della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Mamma di Marianna, l'ultima bambina morta per leucemia. Mia figlia non è il primo caso che muore di leucemia. La rabbia è forte, avete capito? Perché guardate, poi mi trovo mia figlia sepolta. No, ma si deve fare qualcosa. Tutti questi bambini che muoiono. È nato a gennaio, a luglio si è ammalato, aveva 7 mesi. È una leucemia linfoblastica acuta. I medici del Pascale avevano detto: è normale che tu ti sei ammalata perché tu sei nata lì. Possiamo dire che sono state censite in provincia di Caserta circa 2.000 discariche abusive. Se a questo si aggiunga che negli anni successivi una serie di indagini hanno acclarato che organizzazioni criminali, ci tengo a precisare, di stampo camorristico e non, trafficavano e trafficano in rifiuti, ci rendiamo conto che quello dei rifiuti è uno dei business illegali più pericolosi e rilevanti. Adesso la cronaca con un ennesimo caso di pirateria della strada. Con tasso alcolemico 5 volte sopra il consentito, ha fatto un'improvvisa inversione a su una strada statale, causando uno scontro frontale con un'auto che veniva in direzione opposta. 2 degli occupanti sono morti, un uomo di 65 anni e una donna di 63, entrambi di Livorno, e altre 2 donne a bordo sono gravemente ferite. L'incidente è accaduto verso le 2 della notte scorsa tra Livorno e Colle Salvetti. L'uomo al volante è un romeno camionista di 50 anni che è stato arrestato. E occupiamoci anche della festa di oggi, calorosa accoglienza dei fedeli c'è stata per Papa Francesco, che in occasione della festa di ogni santi ha celebrato oggi pomeriggio la messa al cimitero monumentale del Verano a Roma. Dobbiamo guardare con speranza al nostro tramonto, alla gioia di essere ricevuti dal Signore, così ha detto Francesco, che poi ha avuto parole per i profughi in fuga e i migranti morti. In modo speciale pregherò per quanti fratelli e sorelle nostre, uomini, donne e bambini morti assaliti dalla sete e della fame e della fatica nel tragitto per raggiungere una condizione di vita migliori. In questi giorni abbiamo visto nei giornali quell'immagine del crudele deserto. Facciamo in silenzio tutti una preghiera per questi fratelli e sorelle nostre. Adesso una notizia particolare: in chiusura, da oggi in Germania, oggi la Germania è il primo paese in Europa che riconosce ufficialmente il terzo sesso o il sesso indefinito fin dalla nascita. Oggi infatti è entrata in vigore la legge varata dal governo in maggio, approvata poi in agosto, che rende in Germania facoltativo specificare il genere del bebè sull'atto di nascita, offrendo quindi, accanto ai classici M o F, maschio o femmina, la possibilità di scrivere una X nell'apposita casella per indicare il genere intersessuale. Finora solo l'Australia era l'unico paese al mondo aver introdotto una normativa del genere, e la Süddeutsche Zeitung, giornale tedesco, in un articolo in agosto su una legge passata tutto sommato in sordina, parlò di rivoluzione giuridica, ricordando come l'individuo intersessuale classificato così alla nascita potrà successivamente decidere se registrarsi come M o F o rimanere senza specificazione nel sesso X. Bene, la giornata quindi a questo punto è stata riepilogata. Vi ricordo che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Cosa ne pensate del caso Cancellieri sulla vicenda Ligresti? È stata corretta la ministra? Scrivete i vostri commenti sulla pagina Facebook e ci sentiamo dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano di nuovo con voi. Come vi dicevo e ho anticipato, occupiamoci del caso Cancellieri, e se volete coi vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte trattino Roberta Giordano. C'è intanto Virus su Rai 2 con Porro, che ne sta parlando in questo momento. Al Ministero della Giustizia il ministro come persone informate dei fatti, perché queste sono intercettazioni di persone che stavano in mezzo a questa grande vicenda che riguarda un buco, un presunto buco nelle riserve, si dice così, nei conti delle assicurazioni Fonsai. Il ministro viene interrogato come persona informata dei fatti e dà la sua versione, che è quella che adesso vediamo. Effettivamente ho ricevuto una telefonata da Antonio Ligresti, che conosco da molti anni. Ligresti mi ha rappresentato la preoccupazione dello stato di salute della nipote Giulia Maria, la quale soffre di anoressia e rifiuta il cibo. Ho sensibilizzato i due vicecapi di dipartimento del DAP, Francesco Cascini e Luigi Pagano, perché facessero quanto di loro stretta competenza per la tutela della salute dei carcerati, e si è trattato di un intervento umanitario assolutamente doveroso. Dopo di allora non ecco, li ho questa più era sentiti, la difesa so della ministra Cancellieri, così come è stata poi riproposta da Virus. Danilo Leva, buonasera. Buonasera. Responsabile nazionale della giustizia per il PD, la ringrazio della disponibilità e le chiedo, Leva, quindi il Movimento 5 Stelle ha presentato questa mozione di sfiducia, il PD è parso un po' in ordine sparso, anche se poi si è un pochino ricompattato nelle ultime ore, no? C'era chi subito aveva chiesto dimissioni, chi aveva difeso la ministra Cancellieri. Ricordiamo quanto è avvenuto per le ascoltatrici e ascoltatori che magari non fossero stati proprio aggiornatissimi su questa vicenda. La vuole ricordare lei, Leva? La ricordo io? Ma la posizione del PD è in questo momento una posizione, diciamo così, chiara, perché noi abbiamo chiesto al ministro di riferire in Parlamento, di riferire al più presto. Abbiamo bisogno di trasparenza, si tratta di una vicenda molto delicata e sulla quale il ministro deve fugare ogni dubbio. Innanzitutto vanno fugati i dubbi sul senso delle parole emerse dalla telefonata con i Ligresti. E poi soprattutto hanno fugato i dubbi che in questo paese non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Perché ricordiamo, Danilo Leva, che la famiglia Ligresti a un certo punto è finita, almeno per i suoi principali esponenti, in carcere, tranne il figlio maschio perché è in Svizzera, quindi in territorio neutrale, straniero, eccetera. E la ministra Cancellieri sarebbe stata intercettata dalla finanza, ma perché la finanza intercettava i telefoni della famiglia Ligresti, mentre parlava con la compagna di Salvatore Ligresti, chiamiamolo capofamiglia, alla quale diceva che insomma avrebbe conta su di me, qualsiasi cosa io possa fare conta su di me, e quindi insomma questo ha destato scandalo nel momento nel quale si è parlato, no, di questa intercettazione, perché come dice lei, Leva, c'è il rischio di pensare, uno, che ci sia stato un intervento, ma questo appunto sarà poi da verificare, e due, che però, quando si è giustificata la ministra Cancellieri dicendo è stato soltanto un intervento umanitario, come abbiamo sentito prima dalla TV, l'intervento umanitario allora ci dovrebbe essere su migliaia di 67.000 carcerati che ci sono in Italia, no? Quanti sono in condizioni magari di disagio, di malessere, di malattia, di digiuno, come faceva Giulia Ligresti, la figlia di Salvatore Ligresti. Ma ripeto, il ministro deve venire in Parlamento perché quella è la sede istituzionalmente corretta. Noi già ieri abbiamo chiesto l'istituzione al DAP di una task force che si occupi delle condizioni di salute dei detenuti. Veramente non l'abbiamo chiesto solo ieri, è già qualche mese che avanziamo questa proposta, proprio alla luce anche di una modifica della normativa sulla medicina penitenziaria. In carcere si soffre tutti i giorni, ci sono tanti detenuti che non hanno un volto e soprattutto che non hanno voce. Ripeto, da questa vicenda vanno dissipati tutti i dubbi e il chiarimento non può che avvenire nella sede istituzionale deputata a farlo, quindi a venire in Parlamento. Certo è che c'è stata anche la nota della Procura di Torino di ieri, che il procuratore Caselli ha dissipato, diciamo, dubbi sull'interferenza. Non c'è stata interferenza, però sul Fatto Quotidiano di oggi leggo per esempio che poi c'è stata, dopo la telefonata alla famiglia Ligresti, c'è stata anche una telefonata da parte della ministra a due funzionari del DAP, cioè del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Francesco Cascini e Luigi Pagano, che però, quanto risulta al Fatto Quotidiano, quanto ci risulta, essi sì doverosamente hanno respinto le pressioni, spiegando all'incauta Guardia Sigilli che la detenzione di un arrestato compete in esclusiva ai giudici, non ai politici. Quindi, secondo il Fatto Quotidiano, non è che non c'è stata un'interferenza perché la ministra Cancellieri non volesse, ma perché non è stato permesso. Io mi limito a, diciamo così, a commentare quelli che sono gli atti ufficiali. Quindi, ripeto, noi valuteremo tutta la vicenda dopo l'informativa che ci sarà, che ci dovrà essere nei tempi più rapidi possibili alle Camere. Lì faremo tutte le nostre valutazioni. Le leggo velocemente, Danilo Leva, alcuni commenti di ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Walter scrive: a quelli che minimizzano il caso Cancellieri dicendo che in fondo si è solo preoccupata per un'amica, vorrei dire che anche Stefano Cucchi non stava benissimo, come lui, Giuseppe Uva, Federico Aldovrandi, eccetera eccetera, tutta gente che non aveva un amico che lo potesse aiutare. Sono d'accordo con Walter, scrive Alessandro, se si vuole un'Italia migliore il caso Cancellieri non va minimizzato, anzi il fatto che una ministra della Repubblica abbia fatto quella raccomandazione è un aggravante, quindi dice dovrebbe dimettersi senza remore. Francesca Ida dice: mi chiedo, ma quanto ancora dovrà succedere affinché noi italiani incominciassimo ad incazzarci sul serio? Non si salva niente, non si salva nessuno. Per Andrea dice: io credevo che fosse una persona tutto d'un pezzo, invece non è così. Barbara scrive: sottoscrivo ogni singola parola di Walter, cioè quello che diceva, non bisogna minimizzare. E poi esprimo tutta la mia viva e vibrante delusione, scrive un altro ascoltatore facendo la parodia di Napolitano. E poi Massimo: la Cancellieri deve pagare dimettendosi, ma credo che alcuni personaggi scomodi o invisi a una certa lobby vengano intercettati nell'attesa che mettano il piede in fallo. Può essere stata una cosa del genere, secondo lei? Ma guardi, io innanzitutto ci tengo a precisare che noi non minimizziamo assolutamente l'accaduto. Ecco perché abbiamo parlato di una situazione complessa e di una situazione molto delicata. Però allo stesso tempo credo che bisogna, è compito delle forze politiche, mantenere un atteggiamento di serietà istituzionale, e quindi chiedere che tutta la vicenda venga istituzionalizzata e parlamentarizzata, quindi è giusto che il ministro venga a riferire in Parlamento. E quella sarà, ripeto, la sede dell'eventuale chiarimento, su quello noi ci atterremo. E una volta, Danilo Leva, le faccio quest'ultima domanda, che dovesse chiarirsi la vicenda, mettiamo il peggiore dei casi, che dovessero effettivamente emergere delle pressioni indebite, che cosa farebbe il PD in questo caso? Ma noi seguiremo tutta questa vicenda con la massima attenzione, ripeto, con la massima serietà e con il massimo rigore. Quindi chiedereste le dimissioni in questo caso? Ma se gli eventi dovessero precipitare, però guardi, io credo che... No, perché ricordo la vicenda di Josefa Idem, no? Per esempio. Non ho capito, scusi. Ricordo la vicenda di Josefa Idem, che... Non c'è dubbio, su due passi è stata allontanata. Ma su questo piano nessuno ci può accusare di essere minimalisti o di essere disattenti, anzi. E quindi la serietà che noi abbiamo dimostrato la chiederemo anche agli altri, però credo sia giusto non mettere il carro davanti ai buoi, sia giusto non anticipare conclusioni, le conclusioni in una fase in cui siamo ancora in questa fase molto iniziale, e credo, ripeto, che ci debba essere il chiarimento. Io prendo atto anche con positività della disponibilità del ministro già manifestata da ieri, a venire subito alle Camere. Non prima di mercoledì, mi sembra di capire, per suoi impegni comunque, no? Sì, vediamo adesso, vedranno soprattutto i capigruppo, ecco, quando calendarizzare l'audizione. Mm-hmm. Però, ripeto, non bisogna minimizzare, perché quando ci sono questi passaggi nella vita delle istituzioni è necessario la trasparenza, è necessaria trasparenza ed è necessario soprattutto il rigore, perché le istituzioni non sono un affare privato, non sono una cosa di proprietà di qualcuno, ma sono di tutti, e si recupera credibilità se si ha questo tipo di atteggiamento, e noi saremo rigorosi nel pretenderlo da tutti. Le faccio davvero, prometto, l'ultimissima domanda, Danilo Leva. Subito parte del PDL ha detto: mostriamo solidarietà alla ministra Cancellieri, perché il suo caso è come quello di Berlusconi nella questione Ruby. Scusi, nella vicenda Ruby. È andata via la linea, non ho capito, se può ripetere. Sì, mi senti adesso? Le faccio l'ultimissima domanda. Sì. Dicevo, parte del PDL è subito intervenuto oggi dicendo solidarietà alla ministra Cancellieri, perché il suo caso è come quello di Berlusconi nella vicenda Ruby, cioè ha fatto una telefonata anche lui, ma senza che ci fosse concussione, no? In quel caso lei trova paragonabili le due vicende? Trova che il PDL abbia ragione a fare questo raffronto? Ma io non voglio paragonare nulla, perché mi sembra che la nota della procura di ieri abbia escluso ogni tipo di interferenza. Va bene. Valutiamo la vicenda nelle sedi opportune. Questo faremo, e ripeto, lo faremo con grande serietà e con grande attenzione. La ringrazio, allora buon fine settimana e buon lavoro, Danilo grazie, Leva. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme. Prima di passare al prossimo ospite, vi ricordo ancora i fatti principali di oggi. Col caso Cancellieri-Ligresti ne abbiamo parlato poco fa, il Movimento 5 Stelle che annuncia una mozione di sfiducia nei confronti della ministra e il PD che chiede di fare chiarezza, come ci confermava il responsabile della giustizia PD Danilo Leva poco fa. Stati Uniti, sparatoria all'aeroporto di Los Angeles, panico tra i passeggeri, morto un agente, l'uomo che ha sparato, ci sono diversi feriti, l'uomo che ha sparato era un agente a sua volta. Datagate, il capo dell'NSA accusa i diplomatici, dice: siete voi che ci avete chiesto di spiare. In Grecia, killer sparano contro i militanti di Alba Dorata, due morti e un ferito, l'agguato è avvenuto davanti alla sede dei neonazisti. E poi la nuova tariffa sui rifiuti, cioè la Tari, che costerà cara ai negozi, più 300% per i bar, più 650% per i fruttivendoli. Adesso invece vorrei parlare di un sondaggio, mi sembra una prima mondiale storica che io ne abbia memoria, un sondaggio voluto dal Vaticano, commissionato dal Vaticano, con delle domande formulate ai cattolici, a preti in generale, rappresentanti del clero nel mondo, su vari argomenti delicati, dal matrimonio gay alla contraccezione, le coppie separate, divorziate, eccetera, ed è riflette un po' l'impegno del Papa di allontanarsi da quello che lui stesso ha definito un approccio vaticano-centrico. Ma vorrei chiedere un'interpretazione di questo a Vito Mancuso, che saluto. Buonasera Mancuso. Buonasera. Che è teologo, scrittore, editorialista di Repubblica. Quindi è vero che è una prima assoluta questo sondaggio mondiale, Mancuso? Ma che sappia io, sì. In questi termini direi proprio di sì. E tra l'altro su argomenti appunto particolari, forse perché col nuovo corso, il corso Bergoglio, il nuovo corso, no, di questo Papa, che tutti insomma definiscono diverso, di svolta rispetto al passato, si vuole avere più il polso della situazione della società civile, di quello che la gente pensa, vuole, di come sono anche cambiate le cose, no, il modo di vedere la vita, gli usi e costumi. Può essere per questo? Guardi, si associa di fatto a una serie di prime assolute che hanno costellato e che costellano il pontificato di Papa Francesco. Questo diciamo così a livello formale. Per quanto concerne l'aspetto di contenuto, direi di sì, ma è una prima che avrebbe dovuto avvenire molto prima, si potrebbe dire, già. Perché è semplicemente l'assunzione della responsabilità, la presa di coscienza della difficoltà in cui si trova diciamo così, il modello di famiglia tradizionale e quindi l'etica cattolica, ufficiale, tradizionale, conformata su quel modello, un modello di famiglia patriarcale che oggi, ma non oggi, da decenni è in crisi e finalmente qualcuno si accorge che, diciamo così, la realtà pone una serie di problemi e contraddice di fatto una serie di affermazioni ufficiali e quindi si tratta anzitutto di capire la realtà. E questo sondaggio, a me pare, da quello che ho potuto capire leggendo i siti, tra l'altro, nulla di più, da quello che appunto mi pare di capire, è volto a capire come è fatta la società contemporanea e come si muove la mente cattolica, proprio dei cattolici, dei fedeli concreti, di fronte a questi nuovi problemi. E questo è il principale obiettivo. Poi ne capiamo il secondo. Intanto ricordo che questo sondaggio è in preparazione, i dati si dovrebbero avere entro fine dicembre, quindi è una cosa a tappeto mondiale in tempi brevi, in preparazione della conferenza episcopale sulla famiglia prevista per ottobre del prossimo anno, del 2014. Ma quello che mi chiedevo, Vito Mancuso, questo bisogno di conoscere i cambiamenti, la società civile, le nuove esigenze, ha poi come secondo obiettivo quello di essere più vicino alla gente, di essere più accoglienti, oppure di raddrizzare un po' il tiro delle persone che magari non sono conformi alla dottrina cattolica? Ma guardi, prima di rispondere a questa domanda, che tra l'altro è la vera domanda, vorrei dire che da quanto mi risulta questa serie di domande sono state, questa specie di questionario, che sappia io, è stato formulato solamente per il mondo americano, che sappia io, perché di fatto io l'ho letto nella versione inglese, quindi non so se gli italiani, piuttosto che i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, eccetera, avranno la possibilità, diciamo così, di votare. Ecco, perché che sappia io, almeno così riportavano oggi i siti dei vari giornali, che sappia io, la versione di queste domande è quella unicamente in inglese, scritta per le parrocchie americane. Ma detto questo, poi alla sua domanda, ovviamente non c'è una risposta. Nel senso che forse non lo sa nessuno qual è la risposta, perché si tratterà di capire chi vince tra i due partiti all'interno della Chiesa, perché sicuramente ovvero i due partiti, conservatore e quello progressista, sicuramente ci sono persone, esponenti della gerarchia che vogliono imporre la dottrina tradizionale e quindi avranno questi dati unicamente, diciamo così, come presa di coscienza per poi dire: beh, le cose stanno in questi termini, benissimo, ragione in più per imporre la dottrina tradizionale che da sempre la Chiesa ha codificato, oppure se vince, diciamo così, l'altro partito che intende adeguare la dottrina, gli insegnamenti della Chiesa alla nuova sensibilità contemporanea. Qui si tratta di capire se vince l'idea di Chiesa come una specie di cittadella dove tutto è già stato pensato a prescindere dal mondo e dai suoi problemi, o se vince l'immagine di Chiesa come ospedale da campo, per riprendere l'immagine di Bergoglio. Bergoglio. Un ospedale da campo è evidente che è in relazione ai feriti e alle ferite, no? Invece nell'altra prospettiva, se è un'arca della salvezza che è in sé compiuta, il tipo di acqua e il tipo di correnti che si incontra è secondario. Ma e qui dipende. In termini di corposità, di quantità, è più predominante un partito o l'altro, quello dei conservatori o quelli di Papa Francesco, diciamo, che vogliono andare più incontro? Fino a pochi mesi fa, prima dell'elezione di Papa Francesco, io non avrei avuto esitazione a dire: beh, non ci sono dubbi che a livello gerarchico, parlo di livello di gerarchia, vince il partito, diciamo così, dell'opposizione al mondo contemporaneo del non adeguamento. Prova ne era che le affermazioni del Cardinal Martini volte all'adeguazione della Chiesa, se non altro alla messa in dubbio, no, di alcune espressioni dottrinali, dalla grandissima parte dell'Episcopato e del Collegio Cardinalizio erano state interpretate come quasi eretiche. Oggi, dopo l'elezione di questo Papa, dopo le sue affermazioni, Oggi non lo so come stanno le cose, vedremo, vedremo. C'è da dire una cosa, che esattamente una settimana fa è uscito un documento da parte della Congregazione della Dottrina della Fede a firma del prefetto, l'arcivescovo Müller, che immagino a febbraio diventerà cardinale, visto il ruolo che ricopre, che non ha fatto altro che riesprimere la dottrina tradizionale, cioè no ad ogni tipo di amministrazione dei sacramenti verso i divorziati risposati. Quindi questo naturalmente non è del tutto, come dire, in linea con la sensibilità di Papa Francesco, invece di apertura, di misericordia, di attenzione ai singoli, chiesa, ospedale da campo. Quindi vuol dire che anche a livello gerarchico le cose non sono probabilmente così chiare, non lo sanno neanche loro da che parte andare, ed è precisamente per questo che fanno il sondaggio. Anche perché mi era venuto il dubbio vedere questa serie di domande che faranno sulle famiglie monoparentali, sulla poligamia, i matrimoni interreligiosi, appunto la nuova sfida delle unioni omosessuali, anche domande sulle forme di femminismo ostile alla Chiesa. A parte che il femminismo dalle sue origini è sempre stato piuttosto critico nei confronti della Chiesa, nel senso la Chiesa conservatrice, quella che è stata misogina per tanto tempo. Poi gli ultimi papi, Papa Wojtyla forse aveva chiesto scuse alle donne, questo Papa... L'unico forse più aperto era stato Papa Luciani per quei 33 giorni che aveva vissuto da Papa, e anche Bergoglio un pochino più di apertura. Quindi questa cosa delle forme di femminismo ostile alla Chiesa mi ha fatto venire in mente che forse vogliono cercare di parare un po', di raddrizzare il tiro, ma dei cattolici, dei fedeli, e non della Chiesa stessa. Però, come dice lei, Mancuso, questa cosa ancora non si può... immaginare quale sia il vero obiettivo. Bisogna vedere alla fine del sondaggio poi che strada prenderà la Chiesa. Sì, se è una cosa mondiale, perché che sappia io in Italia una cosa del genere non mi pare prevista, però magari sì. Insomma, si tratta di capire, uno, questo, e secondo, veramente come verranno poi interpretati i dati che vengono raccolti, perché noi lo sappiamo quando vediamo il giorno dopo delle elezioni, no? I dati dei sondaggi, certo, delle proelezioni, ma gli stessi dati ufficiali come vengono interpretati da uno o dall'altro a seconda della finalità. E ovviamente questa dinamica vale anche per gli uomini di Chiesa, che sono uomini anzitutto. Naturalmente. Abbiamo fede allora, Vito Mancuso, e aspettiamo di vedere cosa succede. Bene, grazie. Buona serata. Salve. Grazie Mancuso. E buona festa. C'è Gigi Donelli che ci dovrebbe aggiornare su uno sviluppo piuttosto particolare della sparatoria a Los Angeles. Gigi, che cosa succede? Sì, Roberta, da un lato viene confermato il percorso di fatto dell'uomo che è entrato armato, dunque che ha estratto un fucile d'assalto all'interno del Terminal 3, che si è fatto largo letteralmente fino quasi alla zona appunto delle partenze, dove è stato sì colpito ma non sarebbe stato ucciso. Quindi la notizia dell'ultimo momento che viene dato dalle televisioni della California è che l'assalitore sarebbe stato catturato vivo, anche se ferito. Questo è l'ultimo aggiornamento. Grazie Gigi Donelli, infatti prima si era parlato dello sparatore morto, invece questo evidentemente adesso è, come diceva Gigi Donelli, l'ultimo aggiornamento. Ci fermiamo per aggiornare invece adesso chi sta viaggiando, e poi parliamo di questa famosa tassa che dovrebbe salire addirittura in certi casi del 600%. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, vi ricordo allora, prima di parlare di questa famigerata tassa, ancora i fatti principali di oggi. Questa sparatoria che c'è stata all'aeroporto di Los Angeles, è morto un agente, c'è stato il panico sulle piste, e abbiamo sentito poco fa che lo sparatore, come si dice che era a sua volta un agente, era stato dato per morto fino a poco fa, invece adesso l'ultima notizia è che è stato ferito e catturato vivo comunque. E poi anche in Grecia c'è stata una sparatoria, killer erano sparato contro militanti di Alba Dorata, due morti e un ferito. L'agguato è avvenuto davanti alla sede dei neonazisti. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo sentito tanto parlare anche questa sera del caso Cancellieri Ligresti. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato una mozione di sfiducia nei confronti della ministra, e il PD, come ci ha anche confermato il responsabile della giustizia del Partito Democratico, chiede intanto di fare chiarezza. E poi questa nuova tariffa, dicevamo, sui rifiuti, la Tari, che costerà cara ai negozi. Adesso ci spiegherà il prossimo ospite in che termini. Cristiano Dell'Oste. Buonasera. Del Sole 24 Ore, Cristiano si muove con molta disinvoltura come in una giungla, ma gli alberi, i serpenti eccetera per lui sono fisco, tasse, imposte eccetera, no? Certo, sì, Cristiano, sì, sì. Aiuta con molta semplicità, come tu sai fare, a capire questa la Tari, sì. Tari perché, si chiama, perché sì. Tra Trise, Tarsi eccetera, sai che continua la confusione naturalmente, sembra che lo facciano apposta, insomma, perché uno non ci capisca. Sì, sì, ma diciamo che oggi c'è stato questo allarme che è arrivato in realtà già in mattinata da parte di Confcommercio, sì. Che ha presentato una serie di calcoli, di elaborazioni per stimare quanto potrà costare appunto la Tari, che è la nuova tassa, diciamo, sui rifiuti urbani, che si pagherà dal 2014. Ma che in questo caso, nell'allarme di Confcommercio, scusami Cristiano, riguarda però gli esercenti, i negozi, discoteche, certamente, i locali. Diciamo, la tassa viene pagata da tutti, sì. Quindi case e attività commerciali, negozi. Ovviamente Confcommercio nei suoi conti si è concentrata sugli esercizi commerciali e ha evidenziato una serie di rincari che sono potenzialmente anche molto alti. Per esempio c'è il caso di una discoteca che può trovarsi a pagare il 680% in più, cioè vuol dire sostanzialmente, nel caso dell'esempio che hanno preso in esame loro, passare da 550 euro a 4300 di prelievo, ma potrebbero essere penalizzati anche tutti quei locali come rivendite di ortofrutta, pescherie, fioristi, ristoranti, bar e così via. Questo perché con il nuovo con la nuova tassa cambia un po' l'impostazione e l'idea è che si debba pagare in base alla quantità di rifiuti prodotti. Anche se, scusami, Confcommercio lamentava che è sempre un criterio presuntivo, cioè presumono quanti rifiuti potrebbe produrre un locale. Sì, questo è uno dei grossi limiti, perché in realtà potrebbe far sorridere, però questo nuovo tributo, che non è ancora neanche legge perché sta nel disegno di legge di stabilità che è in questi giorni al Senato, è provvisorio, nel senso che la norma che lo introduce dice fin dall'inizio nelle more della realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale. Cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza che entro sei mesi, lo dice la stessa norma, dall'entrata in vigore della Tari, il governo dovrà definire con un decreto i criteri per passare a un nuovo tributo, c'è già un altro nome, che si chiamerà TARIP, ma la sostanza è... Ma perché hanno bisogno di cambiare continuamente questi nomi? No, diciamo che qui dovrebbe cambiare anche la sostanza, nel senso che una volta arrivati i criteri che dovrà definire il governo e una volta che i comuni li avranno applicati, si pagherà davvero, questo è il disegno, in base alla effettiva quantità di rifiuti prodotti. Questo è il punto. Finché non ci saranno invece criteri di misurazione effettiva, ci saranno degli indici. In realtà poi qui la questione è un po' più complicata, nel senso che i comuni avranno una scelta per il 2014. Potranno o andare a ripescare un vecchio decreto del 99 che fissa i criteri di calcolo, oppure elaborare dei nuovi indici di produzione di rifiuti e di producibilità di rifiuti, praticamente saranno tariffe al metro quadrato diversificate in base al tipo di attività e applicare quelle. Ecco perché allora, ad esempio, un negozio che una pescheria, per esempio, rischia di rifiuti trovarsi, ne avrà tanti, ne avrà tendenzialmente di più e rischia di trovarsi più tassato di uno, per esempio, di uno studio professionale che tendenzialmente ne produce molti meno. Il problema qual è? Che nel passaggio a questo nuovo tributo viene anche sancito un altro principio, che è quello della copertura integrale dei costi del servizio, che sono tutti principi comunitari. Però coprire tutti i costi del servizio rifiuti significa che in quei comuni in cui in parte l'attività è sovvenzionata con la fiscalità generale, vorrà dire che non si può più avere a fine anno il comune che va a coprire i costi che la società di gestione non è riuscita. Bisognerà che la società e il servizio in quanto tale si faccia pagare interamente, quindi ci sarà un aumento. La sfida sarà, dove c'è un aumento, cercare di fare efficienza e di abbassare la fiscalità generale, visto che non la si usa più per i rifiuti. E qui però è un punto di domanda, perché poi il discorso è molto più complicato. Insomma, e soprattutto questo vale sia per la Tari che per gli altri tributi, la Tasi e così via. Viene lasciata ai comuni una grandissima facoltà di scelta, quindi in qualche caso potrebbe esserci anche qualcuno che paga meno rispetto al 2013, che pagherà meno l'anno prossimo, però chi e come lo vedremo città per città in base anche all'efficienza con cui viene gestito il servizio. Staremo a vedere. Grazie a voi. Il nostro Cristiano dell'Oste. E adesso cambiamo argomento. Non so se Cristiano vuoi sentire, tu devi partire questo fine settimana? No, non devo. Anche lui qua ogni santo. No, perché adesso c'è il colonnello Giuliacci che ci racconta, se ti interessa. Domani almeno sei libero? Beh sì, se fa bello non ci dispiace. Sentiamo se è bello, colonnello Mario Giuliacci. Sì, buonasera Roberta. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Hai raccolto un po' di desideranza dagli ascoltatori come vorrebbero il tempo, li accontenterò. Ah no, pensavo che chiedessi se avevo raccolto le castagne, che è una cosa che mi piace in genere d'autunno, ancora anche no. Anche quelle, perché se il tempo è bello possiamo andare a raccogliere le castagne, no? Dunque, no, mettiamo da parte le cose facete, diciamo che cosa ci riserva questo fine settimana. Partiamo dalla notizia buona, sarà bello al sud, come sempre, con temperature gradevoli. Invece sulle regioni centro-settentrionale domani arriva l'avanguardia di una nuova perturbazione, purtroppo, che sarà la numero uno di novembre, cioè la prima perturbazione di novembre, molte nuvole sulle regioni centro-settentrionali, però per fortuna le piogge saranno contenute. Deboli, intermittenti sulle Alpi Lombarde, sulle Levante Ligure, sulle regioni tirreniche. Quindi direi che forse non servirebbe nemmeno l'ombrello. Qualche passeggiata si può fare. Così, piovigine più che piogge. Invece nella sera peggiora seriamente sulle regioni di nord-ovest, perché arriva il nocciolo duro di questa perturbazione, la quale poi domenica ovviamente farà sentire in pieno i suoi effetti, non al sud dove abbiamo detto insisterà il tempo bello, non sulla Sardegna perché anche qui insisterà il tempo bello, invece piogge diffuse e intense su tutto il nord. No, insiste sempre il tempo brutto al nord, questo si è capito. Eccoci, sì. È vero, tra l'Emilia Romagna piogge anche sulle regioni tirreniche fino alla Campania e addirittura nevicate sulle Alpi centro-occidentali al di sopra 1000-1400 metri. La notizia buona anche qui che nel pomeriggio sera migliora su tutto il centro-nord. Le temperature resteranno ancora su valori, direi, né troppo fresche né troppo tiepide, quindi temperature tutto sommato da maglioncino e non da cappotto. Ecco. Di che colore lo metteresti il maglioncino per queste temperature, colonnello? Verde speranza che non piova più. Senti, colonnello, mentre ricordo che poi il resto lo potete trovare su www.meteogiuliacci.it, dimmi una cosa, siccome mi hanno spaventata, mi hanno detto che questo potrebbe essere l'inverno più freddo degli ultimi 100 anni, io poi di record non ne posso. Ma guarda, non credere mai queste bufale, io sul mio sito mi sto settimana per settimana sto esaminando quali potrebbero essere i fattori pro o contro un inverno freddo. Scioglierò la prognosi solo alla fine di novembre, quando avrò raccolto tutta la documentazione necessaria. Invece chi vende bufale lo fa già fin da adesso, no? Sperando di avere più click sul proprio sito. Guardatevi bene da queste pessime informazioni che non possono essere anticipate con 2 o 3 mesi. Appunto, diciamo, ecco, parliamo di serietà e parliamo del colonnello Mario Giuliacci. Colonnello, ti ringrazio e ti saluto allora. Buon fine settimana a te, comunque sia il tempo. Grazie Roberta, a te e agli ascoltatori. Buonasera. Ciao colonnello. Adesso facciamo questa pausa e poi dopo vi ricordo ancora i fatti principali.